ظلم کا زمانہ بیتے گا رے بیتے گا یہ مت سکتی حیات سے لیتا خوشی وہ اتنا چکے میں سے جتا لاری وہ یہ ہی ہے تھا کچھ پاپ آخو فام تب لیجو کنسو ہے جيبوا شباب ومئات البنات نطلع الجبل الهوى ببلاش ما بدنا حدا يطلع نشاف Violencia engendra violencia, si la tienen en su mesa cada día nunca van a alcanzar sabiduría. Se alimentan su cuerpo y sus neuronas. Megaphonics, Megaphonics, Megaphonics, la música vista del cielo, trasmissione musicale e geopolitical. Eccoci per Megaphonix e di oggi, ritorniamo nel nostro viaggio della Transiberiano, ci fermiamo a Mosca perché ancora nella notte dell'8 marzo c'è Marta che ci ha fatto scoprire questo gruppo che si chiama Pussy Riot. Non avremo mai, si prenderà un po' di tempo prima di finire di sfruttare le vostre voci che sono venute su questi microfoni del 24 ore dell'8 marzo, voci che si sono unite per parlare delle nostre lotte, parlare delle lotte di tutte le donne femministe e lesbiche qui e nel mondo, e ci sono tante, e voci che sono unite per farci vedere che quando ci organizziamo, quando crediamo al nostro separatismo come pratica politica, quando crediamo alla nostra autonomia, allora si può fare qualcosa e forse si potrebbe anche sperare qualcosa. Intanto mando comunque questa piccolo intervento di Marta, io c'era anche Cri Ro nello studio dell'8 marzo, era verso le 2:30. Lo scorso 21 febbraio 5 di loro sono entrati nella cattedrale di Mosca, appunto inscenando la cosiddetta preghiera punk dall'altare, la canzone che è stata così incriminata, intitolata Holy Shit, era appunto una condanna palese al legame appunto di Vladimir Putin con la Chiesa ortodossa. Guarda, non ho trovato la canzone che dicevi tu, invece c'è un audio di una manifestazione, una performance che hanno fatto. Vediamo. Allora, sono sul tetto, urlando. C'è la Piazza Rossa. Sono 20, urlando, c'è una bandiere, gitare. Sono in gonna di tutte le colori. Grigio nella neve di Mosca che proprio brillano. E dunque, da non mancare, le Pussy Riot. E allora, chi sono le Pussy Riot? Le Pussy Riot sono un gruppo punk nato nell'anno 2004, quando Caterina e Anastasia hanno incontrato Luisa. Le tre ragazze si sono velocemente reso conto che erano sulla stessa onda e hanno iniziato a cantare insieme e a fare musica insieme, sia nelle pub e nei festival. Si sono ispirate del gruppo del movimento Riot Girl degli anni 90 e hanno iniziato e hanno fatto un piccolo CD, una piccola registrazione con 4 pezzi. E ne mando, prima di ritornare alle loro azioni, ne mando uno che si chiama No Money in My Sleep. Pussy Riot si separa, sono un po' separate, per qualche anno non fanno niente, finché ritorniamo a sentire parlare di loro da settembre 2011, in cui si attivano con forza contro Putin. Attivazione che si moltiplica ancora di più quando nel 4 dicembre scorso ci sono state tante frode durante elezioni legislative in Russia, e hanno iniziato per esempio a fare dei blitz nella metro di Mosca. Una seconda azione, una seconda cosa che hanno fatto ultimamente è la cosa in cui parlavamo nella trasmissione di giovedì scorso, e questa come si dice, questo blitz che hanno fatto salendo sul tetto del museolo di davanti a, sulla Piazza Rossa, e cantando la loro canzone che vedremo le porteranno a avere problemi, canzone in cui loro cantano rivolta russa, Putin si piscia addosso. Allora hanno dei passamontagna tutto colorati, legone e urlano contro tutti. Pussy Riot che in quel momento là, abbiamo ripreso questo audio del blitz che hanno fatto sulla Piazza Rossa contro Putin, dicendo chiaramente Putin si piscia addosso e rivolta russa. Infatti dall'inizio si sono comunque subito messo contro la candidatura di Putin chiedendo una piazza Tahrir a Mosca, un'opposizione che comunque Putin temava. E secondo il gruppo lui aveva completamente paura di tutte le cose che succedono e non si aspettava a questo. Per farci sentire, dunque, le Pussy Riot hanno moltiplicato le azioni. Il 3 dicembre sono state sul tetto della prigione dove stava incarcerato il blogger e attivista Alexei Navalny. Il 20 febbraio il gruppo aveva anche l'azione di cui abbiamo sentito l'audio, in cui secondo le traduzioni che ho trovato è Putin si cacca addosso, Putin si piscia addosso. Comunque testi sempre pieni di insulti al potere, e arriviamo a questa azione che il 21 febbraio hanno fatto entrando nella cattedrale del Cristo, non mi ricordo come, perché comunque non mi frega molto, comunque la cattedrale di Mosca, con queste passamontagna multicolori sulla testa, e diceva: visto che le manifestazioni pacifiche di centinaia di migliaia di gente non danno nessun risultato immediato, noi andiamo a pregare la Madonna di cacciare Putin il più veloce possibile. E dunque si vedono loro sull'altera cantando, pregando, e davanti a gente fideli completamente assorbati, non so come si dice, comunque non spaventati, ma e si canta dunque questa preghiera che si chiama Sacra Merda lì nella cattedrale di Mosca. Путина прогони, Путина Che penso che adesso sappiamo tutte dire femministi in russo, così era chiaro. Allora, questa canzone chiamata Holy Shit, Sacra Merda, denuncia il legame tra Putin con la Chiesa. E il 7 marzo la Chiesa ortodossa ha annunciato pubblicamente che non sosteneva l'arrestazione delle due giovani, mentre comunque l'arcivescovo della chiesa aveva comunque chiesto per questo atto blasfematorio chiesto una punizione chiara e punizione a quale il governo ha subito risposto facendo che il 5 marzo due donne sono state arrestate e messe in prigione. Due donne che comunque rifiutano essere partecipanti al gruppo e due che hanno comunque chiesto di essere rilasciate hanno iniziato dal 5 marzo uno sciopero della fame e dicono che non mangeranno finché possono ritornare vicino ai loro bambini, figli. E questo il sito del gruppo denuncia una campagna di harassment che non ha nessun legame con la religione. Comunque, infatti, dall'inizio di settembre le donne di questo gruppo si sono attivate contro il regime e dall'inizio quando si è saputo che Putin richiederà rifare lo scambio al potere alla presidenza con Medvedev, dall'inizio loro si sono messo chiaramente contro attivando la coscienza della popolazione facendo azione di strada e l'ultima nella chiesa non essendo più neanche più importante che le altre comunque è stato appoggiandosi sulla religione è stato una possibilità diciamo un pretesto per arrestare due donne. Ritorniamo per sentire un po' le loro inizio 2006 il loro album. Sentiamo l'album si chiama Bride e sentiamo Sister. Yeah. E visto che siamo a Moscou, anche se loro sono un po' più in là, verso est, mando un pezzo di Ivanova, il tango finlandese. Музыка со мной всюду, помоги же мне, Боже, я ее любить буду, и она меня тоже. Ноты заплету юги, сочно я вкушу манго. Попивайте же, други, финское мое танго. Questo tango finlandese che non ha molto da fare con le Pussy Riot né sulla musica né su, al mio senso, sulle parole, a parte che sono tutti e due gruppi di donne e anche Ivanova un gruppo di lesbica russe, ci ha servito almeno a conoscerle un po' di più e poi a finire questa traduzione invece testo pubblicato sul sito di Pussy Riot. Volevo aggiungere, se lo ritrovo, se non lo ve lo dico dopo, che c'è comunque un indirizzo mail dove si può mandare una mail di solidarietà alle due donne, diciamo, perché comunque non dicono non avere niente da fare con il gruppo Pussy Riot e comunque sono state incarcerate il 5 marzo, sono in sciopero della fame e tipo scrivere a loro a Pussy Riot, no, Pussy Riot Solidarity, PUSSIOT P-U-S-S-R-I-O-T, Solidarity con un Y alla fine, @gmail.com. Invece, come dicevo, il gruppo Pussy Riot scriveva per l'8 marzo questo testo sul loro blog. La nostra risposta alla repressione vendicatrice. Giornata internazionale di solidarietà delle donne. Già da molto tempo il nostro gruppo scatena la rabbia del potere, soprattutto per la sua interpretazione della canzone Putin si piscia addosso. I capi di accusa fanno parte di una campagna di calunnia ovviamente orchestrata per ragioni politiche che, come tutti hanno potuto vedere, non hanno niente a che fare con la religione. Il sentimento religioso dei credenti ne è solo una copertura formale. Ora il potere non nasconde neanche più i suoi progetti machiavellici e ha introdotto un nuovo capo di accusa. Appello all'estremismo. Si tratta esattamente della canzone Putin si piscia addosso, che inizia con queste parole: rivolta in Russia. È chiaro che abbiamo fatto subire al potere con i nostri concerti illegali perdite di prestigio su due livelli, colpi portati su due simboli principali, la cattedrale di Mosca e la Piazza Rossa. Come risposta, il potere con la persona di Putin, presidente per l'eternità, e il patriarca Kirill, ha reagito immediatamente e brutalmente. In questo, le donne che sono accusate di fare parte del nostro gruppo continuano lo sciopero. In questo momento, le donne che sono accusate di fare parte del nostro gruppo e continuano lo loro sciopero della fame. E il direttore del carcere, Siso, si rifiuta a farle avere le loro cose personali, libri e lenzuole. Questi eventi dimostrano che il patriarcato della Chiesa russa è anche lui uno strumento di controllo politico e della repressione dei cittadini e attivisti indesirabili agli occhi di Putin. Ma il nostro gruppo non ha nessuna intenzione di depositare le armi, neanche fermare le sue attività. Abbiamo già scritto una nuova canzone. Seguiamo la situazione, sceglieremo il momento giusto per interpretarla. Le nostre forze sono in questo momento mobilitate interamente per la difesa delle compagne arrestate. È così stupefacente, ma la gente che accusa queste giovani donne è in completa contraddizione con le opinioni che dice difendere, incarcerando madri di due bambini che dovrebbero essere sacri come lo è la Vergine Maria. Consideriamo ogni individuo che soffre in carcere, quel che sia il suo genere, le sue particolarità o la sua presenza o assenza di figli. Siamo contro l'approccio sessista del sostegno dai prigionieri politici e chiediamo l'aiuto di tutti perché la loro sorte non è indifferente, per mettere un termine alle misure di persecuzione di due persone attualmente dietro le sbarre. Indipendentemente della loro celebrità mediatica, del loro genere sessuale e del loro stato di madri. A tutti quelli che scatenano rabbiosamente contro di noi, dichiariamo una volta ancora che non ci sono nel nostro gruppo leader o ideologi. Siamo per principio opposte alla gerarchia. Il gruppo conta solo come membra le ragazze che salgono sul palco e non hanno nessun componente maschile. Invece abbiamo numerosi amici, tra cui l'attivista Piotr Versilov, che ringraziamo per il suo aiuto all'organizzazione della manifestazione dell'8 marzo. Ringraziamo tutti quelli che ci sostengono e ci aiutano alla difesa delle carcerate per atti che rivendichiamo. Non vediamo delle foto delle ragazze che sono dietro le sbarre, hanno il diritto di essere difese indipendentemente dalla loro apparenza fisica. Questo è un comunicato che si trova sul sito del Pussy Riot, che hanno mandato per l'8 marzo. Thank you. Ecco dunque, arriviamo alla fine di questa trasmissione. Cercavo un po' di... Aspettate un po' perché avevo letto che ultimamente si è trattato anche di una manifestazione qui 200 persone si sono hanno fatto presidio davanti a II del del governo per chiedere la liberazione delle due compagne che sono Nastasia Tolonikova e Maria Aliokhina, che sono state arrestate il 5 marzo per dal potere che le accusa di avere fatto questa pieghera punk nella cattedrale di Mosca. Dunque loro sono un po' diventate ultimamente un simbolo delle rivolte che si sono svolte in Russia, in diverse città, le avevamo già evocate l'altra volta, come sia un simbolo della rivolta sia simbolo della repressione. E su questo vi lascio e vi dico a fra due settimane. Continueremo sicuramente il nostro viaggio in Russia attraversando questo paese di 9.000 chilometri e noi lo facciamo da ovest a est. 有没得实力还要去来当歌星，以为会捞几个眼子就在哪里 violencia engendra violencia, si la tienen en su mesa cada día nunca van a alcanzar sabiduría, se alimentan su cuerpo y sus neuronas. Megaphonics, Megaphonics, Megaphonics, la música vista del cielo. Trasmissione musicale e geopolitica. E mentre fra pochissimi minuti ci sarà una corrispondenza con Tunisi, vi mando la mia scoperta dell'ultima settimana, una valzer di Sofia Sharai. مفتوح السماء مفتوح شوف واحد جوج ثلاثة غمامة زرقاء زرقاء غمامة اللي مسافرة كون شعري الأبيض يتقادى بلا محنة ترقص عدامي حرة قلبي Claro. واحد جوج ثلاثة أنا وانت لعوينا زماني واللي رحمه